questa realtà che non c'è più, raccontata ormai soltanto dalla TV. Tra falsi e mediocrità c'è sempre un onesto che in fondo l'onesto non fa perché conviene. Il gioco sporco in fondo lo fa viver bene. E così la giostra va, c'è chi dice, c'è chi invece poi sorride a metà. Su questa terra ormai non c'è più il sole, la fanno facile finché vendono a tutti bugie meravigliose a basso costo o a prezzo che non c'è. Soltanto a te ridi sulla verità, quella della gente che oramai ammazza per onestà e perché sta male, non ha nemmeno i soldi per un pezzo di pane. E così la giostra va, c'è chi vince, c'è chi